Sabato 29 novembre si conclude la prima edizione di Targhe Officina Roversi. Ci sarà al Teatro Testoni una serata finale di quello che non è una vera e propria competizione, ma un dare attenzione a poetiche d'autore, non necessariamente nell'ambito canzone. Sono col presidente di Targhe Officina Roversi, Roberto Calari. Questo premio, che non è un premio ma è un riconoscimento, d'altra parte non si sa come individuarlo, come si colloca nell'ambito culturale musicale attuale? Beh, è molto importante, si colloca all'interno di un movimento sicuramente che cerca di valorizzare le nuove poetiche d'autore a livello nazionale, di cui Officina Roversi, di cui sono presidente, che è quella che promuove Targhe Officina Roversi, è parte, e lo è assieme al Premio Tenco, a Officina delle Arti Pasolini di Roma e anche alla rete che si è creata fra tutti i principali, le principali realtà che lavorano sulla musica d'autore in ricordo, in omaggio e in testimonianza contemporanea di Bindi, Gaber e così via. Sono tutti, è nato finalmente un coordinamento di cui noi facciamo parte, ma noi siamo nati per un'ispirazione, anche le targhe per un'ispirazione legata al nome che portiamo, cioè Officina Roversi, Roberto Roversi, la sua grandezza anche di poeta, di impegno civile, di poetica che è sempre fuori dal mainstream, capace di ascoltare, di includere a ogni artista, a ogni persona che lavorasse, che volesse, intendesse lavorare partendo dalla parola. Quindi per ispirazione e per rendere contemporaneo il pensiero di Roberto Roversi, noi abbiamo cominciato a realizzare diverse iniziative già dal 2023, e questa è la prima serie, la prima di una, speriamo di una lunga serie di appuntamenti annuali, quindi è un format che si ripeterà tutti gli anni. È stato anche per certi aspetti una grande opportunità di conoscere, di capire cosa fosse la domanda esistente di artisti professionisti della musica, del testo, della parola, della poesia, che intendano e vivano praticamente, giovani e meno giovani, fuori dal mainstream, come esigenza di esprimersi e di ragionare, di parlare, di ascoltare altri sul tema della contemporaneità, sul tema delle persone, di quello che le persone direttamente vivono, non influenzati a monte nella realizzazione di una produzione artistica da quello che il mercato chiede, ma partendo da se stessi, da quello che vivono direttamente, dai temi grandi della contemporaneità che ognuno di loro vive. Abbiamo scoperto che questo universo, 529 partecipanti al bando, che alla chiamata che abbiamo fatto in un mese di estivo, peraltro di luglio, in neanche un mese, e con una qualità, visto che abbiamo, la giuria ha dovuto guardare, interpretare, analizzare un po' tutte le candidature in modo molto scrupoloso, danno l'idea di un'opportunità davvero importante e di un numero veramente importante. Cioè il fatto che siano tante con una qualità così vuol dire che in Italia, essendo nazionale il premio, essendo arrivati da ogni parte d'Italia, che c'è una domanda incredibilmente ampia da questo punto di vista, una domanda veramente forte che da Bologna noi vogliamo cercare di valorizzare, pensando appunto il ruolo storico anche di Bologna da questo punto di vista, no? Città della musica UNESCO, con tanta storia di cantautorato, di artisti fondamentali che hanno, e quindi non a caso ci sono dei fili che collegano la contemporaneità e quindi la realtà di oggi a una storia professionale. Ad esempio il premio che daremo alla carriera a Gaetano Curreri non è solo espressione di un rapporto di grande affetto fra Curreri e ovviamente Roberto Roversi, è anche espressione di artisti che hanno sempre interpretato, sono stati in grado di interpretare con la loro musica, con la loro creatività, con la loro scrittura, a interpretare, come dire, i tempi che stavano vivendo con grande capacità poetica, grande capacità di contaminare, diciamo, di relazionarsi ai pubblici di riferimento, quindi non pensando prima quale sarebbe stato il risultato, ma partendo da quello che volevano esprimere. Questo è un po', ovviamente, premiare Emanolde come artista alla sua, diciamo, carriera con il premio Hanser Hanser, premiare dall'altro lato il collettivo Wuming proprio per il suo rigore, diciamo, e anche per la sua affinità con la pratica e la poetica di Roberto Roversi, un altro elemento fondamentale che il 29 sarà esplicitato molto meglio, ma soprattutto il 29 è l'occasione per cui quei ragazzi che sono, dico ragazzi perché sono dell'età media tra i 25 e i 40, diciamo, che sono stati quelli premiati dalle targhe, dalla giuria di oltre 60 promotori che un po' rappresentativi un po' di varie parti d'Italia hanno giudicato, quindi hanno ascoltato più che giudicato le opere, e si sono fatti l'idea che questi tre artisti, e quindi che Ludovica Pasca, Crisafulli per la poesia e Scafidi per i testi e per le canzoni, siano assolutamente meritevoli di essere visti, ascoltati e in qualche modo promossi, meritevoli come gli altri 25 che sono arrivati in finale, come tanti di quelli che hanno comunque partecipato, di avere delle occasioni nuove, di essere ascoltati, di ascoltarsi fra di loro, di anche farsi ascoltare da un pubblico molto più ampio di quanto non sia quello dei critici, degli specialisti e basta. Importante, ma non a caso le due serate che hanno anticipato questa serata finale al Teatro Testoni sono state fatte nel mese di settembre in piazza Lucio Dalla, cioè in una piazza dove la contaminazione dei pubblici e dei linguaggi è assolutamente la cifra di quella piazza, quindi perché era importante che si ascoltassero fra di loro e si creasse una community fra di loro, e si fosse anche l'opportunità per un pubblico anche di famiglie, di realtà molto diverse, molto lontane magari dalla canzone d'autore, di avvicinarsi e di ascoltare canzone d'autore, poesie, testi, e di avere degli stimoli anche di riflessione diverse. La serata del 29 di novembre al Teatro Testoni sarà gratuita? Assolutamente sì, con prenotazione ovviamente dei posti, perché entrando ovviamente nel sito già direttamente di Officina Roversi si apre una landing page da cui è possibile entrare nella mappa, diciamo, del teatro, di prenotarsi i posti che sono ancora disponibili. Bisogna un po' affrettarsi perché i posti, certo, non sono infiniti. Infatti, grazie mille, grazie a voi, Roberto. Grazie, ciao. A voi, buona.